24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Angiolina Jolie ha lasciato Berlo. Non hai sentito Renzi? Dice che secondo lui, ma... Dice che ritornano insieme. No, io che ho fine. Sentito che lui cantava Amici mai, per chi si ama come noi. Ma guarda come canta bene. Sono bravissima. Adesso mi chiedevo, ma in questa separazione Berlu sì. dovrà pagare gli alimenti anche lui come a Veronica? Ecco, questa è una buona domanda. Questa è una bella domanda. Vabbè, questa è Luciana di Tizzetto ieri, per iniziare con un sorriso, così questa 29esima settimana decisiva, 29esima, cari italiani, per la riforma elettorale, nonché 29esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Ebbene sì, ebbene sì, cari italiani. Allora, questa è 24 mattino, riparte una nuova settimana, c'è Miriam Lucchetti in redazione, c'è il nostro alpino Peter Bescapè in regia, insomma siamo qua tutti pronti ad aprire, che cosa? Il Parlamento. A un caffè si può avere? Il caffè volentieri a tutti quanti. Parlamento. E va bene, siamo qui al Parlamento, dove voglio salutare intanto un gradito ritorno il vice direttore di Libero, Massimo De Manzoni. Buongiorno, eccoci Massimo. Buongiorno a voi. Come va? Parte questa nuova settimana un po' in difficoltà. È una settimana foriera di grandi avvenimenti anche questa. È lunedì. Per i giornali va bene, insomma. Per i giornali va bene. Allora, caro Massimo, ti voglio presentare un nuovo personaggio che introduciamo qui al Parlamento e sono molto contento. È un prete felice, così si definisce su Twitter. È Don Dino Pirri. Buongiorno, Don Dino. Come va? Niente. Non c'è più, Don Dino è scomparso. Era troppo felice, Don Dino non c'è più. Don Dino, no, vabbè, boh, adesso recuperiamo la linea. Cioè, quelle cose proprio, presentiamo la nuova, Don Dino Pirri. Non c'è, ha già messo giù. Vabbè, allora, una settimana buona per i giornali, dici Massimo, perché allora si parte. Ma da che cosa? Certo, perché ci sono tante cose che succedono. E quindi tante cose da raccontare. Vabbè. Il caso Cancellieri, questo è l'inizio. Il caso Cancellieri, chissà che succederà. Il caso Cancellieri, tutti i giornali titolano. Siamo alle ipotesi dimissioni ormai. Io avevo twittato dopo che era successa questa vicenda 3 giorni e si dimette. Mi sa che ho sbagliato una decina di giorni, o no, Massimo? Sì. Hai sbagliato forse i tempi, ma non la conclusione della faccenda. Perché mi sembra difficile che possa rimanere lì e non è interesse soprattutto dei suoi, chiamiamoli, mentori. Sì. No, perché sì. A questo punto diventa un elemento destabilizzante, Napolitano, Letta, tutti quelli che hanno interesse invece che le cose vadano avanti così come sono, non possono permetterselo, per cui adesso cercheranno di farla dimettere senza arrivare neanche in Parlamento al voto. No, ma è chiaro. Allora, però Massimo, l'abbiamo recuperato. Allora, Don Dino c'è con noi? Eccolo, buongiorno. Ha detto c'è una nuova entrata qui, Don Dino Pirri, bom, ha messo giù il telefono, che è successo? Non so, qualcuno è caduto. Un prete... Si cade di questi tempi, si cade facilmente. Abbastanza. Un prete felice, così twitta. Perché mette su Twitter, sono un prete felice, felice di essere prete? Ma perché sono una persona felice che di questi tempi sento dire da troppe poche persone, anche dell'ambiente mio, e poi la mia felicità è legata anche a quello che sono, anzi soprattutto a quello che sono, che non è soltanto un ruolo o un'attività, ma fa parte della mia vita. Allora, fa stupore una persona che dice di essere felice oggi, no? No, per carità. Allora, Don Dino e anche Massimo De Manzoni, vi voglio far sentire ieri cosa ha combinato il Papa. Questa Don Dino però ce la deve spiegare. Il Papa ieri, sentite. Vorrei adesso a tutti voi consigliarvi una medicina. Ma qualcuno pensa, il Papa fa il farmacista adesso? Si tratta di una medicina spirituale chiamata misericordina. una scatolina di 59 granelli intracordiali. In questa scatoletta è contenuta la medicina e alcuni volontari la distribuiranno a voi mentre lasciate la piazza. Ma cos'è, Don Dino, la misericordina? Ma cos'è la medicina, la misericordina? Guardi, il nome in sé ha fatto sorridere anche me, anch'io un po' mi sono il rosario, il rosario. Però poi bisogna capire ancora, il Papa a volte ha queste traslazioni di traduzione ci stupiscono ancora di più delle sue espressioni, quindi poi l'abbiamo compresa, insomma. La misericordina. Massimo De Manzoni, tu la prenderai la misericordina un po', non lo so. No, io prendo già tre pillole, ma devo dire che questo Papa ha un senso del marketing e della propaganda eccezionale. Poi dopo il resto non mi addentro, sicuramente ha questo istinto proprio per il marketing, che già si era visto in altre occasioni. Io, per esempio, quella foto fantastica e molto costruita di quando salì da solo sull'aereo con la valigia. Sì, sì, ma anche di recente, mondo, no? Anche di recente che... Ha fatto tantissimo per dare un'immagine nuova e diversa della Chiesa, che ne aveva bisogno, perché ultimamente ha avuto scandali tra finanziari e non solo, insomma, aveva proprio bisogno di una nuova immagine. E infatti da laico maledetto mi sembra che stia quasi esagerando, questo appunto il senso che sul quale Don Dino non è che adesso come dire, qualcuno dice basta, voglio dire, no, il prete che porta il papa che porta la valigia, il papa che va al Quirinale con l'utilitaria e saluta i turisti al bus, adesso la misericordina, insomma, sono belle cose d'immagine, però poi adesso fermiamoci, cioè ci deve essere un limite, no, a tutto, Don Dino. Ma io credo che il Papa può rallentare anche, dobbiamo cominciare adesso noi come Chiesa a darci una mossa, perché è facile che lui ci abbia ridato della credibilità, adesso dobbiamo avere la coerenza noi di dare seguito ad alcuni gesti. Perché sennò, insomma, però vabbè, e cos'è, una mossa di marketing, però, promosso in marketing questo Papa, possiamo dirlo. Ma dobbiamo sempre ridurre tutte alle solite categorie? Ma insomma, un po' di immagine, ci sono le immagini oggi paginate sui giornali con la misericordina, effettivamente. Guardi, però nella Chiesa c'è un'altra parola che utilizziamo e che forse farebbe bene anche alla politica, una volta c'era anche nella politica, la profezia. Cioè gesti che richiamano una realtà grande e che suscitano interesse, suscitano dibattito, interrogano, provocano, dividono. Hai capito, Massimo? Qui qui siamo piani diversi. Nessun laico è maledetto, volevo dirlo. Non sei maledetto, caro Massimo. No, non sei questo, nessun laico è maledetto. Cioè, misericordina doppia anche per Massimo De Manzoni. No, a proposito di Chiesa, oggi la Chiesa è protagonista sui giornali, ma che devo fare? Questo sembra fatto apposta, no? Anche più per cose più prosaiche, c'è la questione della politica, della scissione, Berlusconi, il Popolo della Libertà, cosa che Libero ci camperà per mesi adesso, i nostri lettori. Allora ti chiedo subito, Massimo, ma anche a Don Dino, di commentare questo retroscena che c'è su Repubblica, pagina 9. Sapete dove si è consumata tutta la vicenda di Alfano, la scissione, secondo Repubblica? I vertici in Vaticano con Monsignor Fisichella e il Cardinal Camillo Ruini. Caro Massimo, hai capito? È bellissimo, perché su Repubblica ieri Scalfari scriveva che finalmente questo Papa non ingerisce più negli affari interni, della politica. Politica, eccetera, eccetera. Il giorno dopo sono subito precipitati a smentirli i suoi giornalisti. È una cosa che sta succedendo abbastanza di frequente in quel giorno. È abbastanza, sì. Sì, ma al di là di... Vabbè, adesso hai sistemato Scalfari, Eugenio Scalfari. Questa te la dovevi togliere nei confronti di Scalfari. Però la questione è questa. Cioè, sarebbero gli incontri con Alfano, Lupi, insomma, l'anima molto cattolica del Popolo della Libertà. Cioè, l'idea è cattolici di qui e laici di lì. E laici di là, insomma, per il Popolo della Libertà e Forza Italia. Questo è il senso. E quindi quei vertici in Vaticano con i ministri alfaniani per preparare la scissione. Oh, Don Dino, siamo ancora qui alla Chiesa che pensa a cose anche molto terrene, di politica. Mi permetto, sì, mi permetto. Sì. Cioè, il Cardinal Ruini è un cardinale simpaticissimo in pensione, Monsignor Fisichella fa parte di un pontificio, è il presidente di un pontificio consiglio. Non sono i vertici della Chiesa, però. No, vabbè, certo, però sono... no, vabbè, è chiaro, il vertice è quello, si sa. Sì. Sono due cardinali, un cardinale e un arcivescovo, tra cui uno in pensione, che avranno detto delle cose, avranno fatto delle cose, però poi la Chiesa è fatta da tante altre anime. La Chiesa è quasi come il PD, pensavo questa mattina. La Chiesa è come il PD, no? Questa è quasi come il PD, con tante anime. Ah, un po' divisa. E non divisa, in dialogo, come il PDL adesso. Ah, come il PDL adesso. Non è un grande marketing dire che la Chiesa, ma io non so parlare, no, infatti la Chiesa come il PD e anche come il PDL, insomma, un po' in dialogo, diciamo così. Ma come i grillini ho letto stamattina. Sì, esatto, no? Esatto. Per non farsi mancare niente, quindi. Sono gli altri che ci copiano, forse. No, non lo so, però Don Dino, adesso qua che ridurre Monsignor Fisichella a uno di poco conto e Cardinal Ruini, un cardinale in pensione, però vabbè, oh, qua racconta Repubblica che invece sarebbero i fautori di queste riunioni, dato di fatto che Alfano, Lupi ci vanno a parlare, e quindi voglio dire, evidentemente saranno influenti, no, per loro, per la politica, o no, Don Dino? Ma probabilmente sì, io sinceramente preferisco che il fatto che si sia influente non è mica un peccato totale, il fatto che si dicano delle cose che possono interessare o possono guidare non è un peccato mortale. Bisogna vedere poi il motivo degli interessi. Vabbè, è chiaro, sì, il motivo è, chi lo sa. Io ricordo sempre un'epoca in cui il Vaticano, la Chiesa, era molto più forte, molto più presente, molto più incisiva nella società italiana. Quando c'era la DC. I politici sapevano essere molto più liberi. Certo, quando c'era la Democrazia Cristiana. Allora, ma c'è anche adesso, guardi che, Massimo De Manzoni, c'è anche adesso, mi risulta, la Democrazia Cristiana al governo. No, o no? È proprio la Democrazia Cristiana, risorta sempre. Un tentativo. Ma infatti, probabilmente sì, anche se non leggevo questo weekend da qualche parte in Veneto risorge la Democrazia Cristiana, e io dicevo, sì, dentro di me, oh, boh, ma non è al governo da qualche mese, eppure pare che sia risorta, insomma, come dice Don Dino, risorge tutto. Va bene, andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Ah no, prima mi chiede via sms un ascoltatore per Massimo De Manzoni se sarà presente sabato 23 novembre a tifare tra Hellas Verona Chievo, ovviamente Chievo, perché si sa Massimo De Manzoni tifoso del Chievo da sempre, il derbissimo, andrai a vederlo? Non so come sono i miei impegni lavorativi, se ce la faccio sì. Ecco, non era presentissimo sulla questione, uno vero tifoso del Chievo aveva il calendario stampato in testa col 23 novembre casella, no impegni lavorativi, questo fa capire. Vabbè, andiamo a sentire le informazioni sul traffico e poi rientriamo con la nostra segreteria telefonica ai nostri ascoltatori. 24 mattino. Ciao Alessandro, IVA, canone, TASI, TARES, IMU, ora il TUC, non se ne può più. Per semplificare, sembra che ci sia la proposta adesso di unificare il tutto nel VLINK, ve lo infiliamo nel... l'ultima parola mettetela voi. Ciao Ale, ciao! Il ministro dell'economia Saccomanni, che parla di ripresa, in quale minchia di stato legifera lui? Di cosa sta parlando questo fantastico uomo? Aurora Lussana, le volevo ricordare che il raccordo anulare è una sorta di circonvallazione di Roma, perché è per intero situato dentro il comune di Roma, quindi che cazzo vai dicendo che deve essere pagato? Non è come la tangenziale che sta fuori Milano, hai capito? Padana di merda! Alessandro, ma ancora con sta cancelleria, ancora non si è dimessa? Ma come si fa? Il bello di tutta questa storia è che dopo che lei ha fatto da tramite per agevolare, per sollecitare una pratica, si viene a dire che è pure un ambito istituzionale, un compito, quasi che se non l'avesse fatto è omissione di pubblico ufficio. Ma ci rendiamo conto? Beh, insomma, la verità è molto semplice, che questo è uno scandalo che si sana solo in due modi. O si dimette o dà il numero del cellulare a tutti gli italiani, ma deve rispondere dopo, Caro Milan, dacci una mano a costituire un gruppo di persone determinate ad attuare un bello sciopero fiscale. Se non smettiamo di fargli arrivare i soldi a questa politica, questi ci portano via anche la zappa e non riusciremo neanche più ad andare a zappare. Vabbè, questa è la segreteria telefonica nostra. Siamo con Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero. Siamo con Don Dino Pirri. Don Dino, di dov'è? San Benedetto del Tronto, non l'hai anche detto. Dove sì, sta? San Benedetto del Tronto, ma ormai vivo tra San Benedetto del Tronto e Roma, quindi... Ah, ecco. Ma è parroco? Oh. È parroco? No, sono stato parroco per un po' di anni. Adesso sono assistente nazionale dell'Azione Cattolica dei Ragazzi, che conoscono come ACR. Vabbè. Allora, visto che la nostra segreteria sono un po' così, anche... boccati i nostri ascoltatori, mandiamo un po' tutto, li ha sentiti un po' arrabbiati qualcuno? Sì, beh, oggi sì, li ho sentiti tutti arrabbiati, veramente, non c'erano persone felici. No, mica felici come lei. Allora, qual è il politico che le piace di più, Don Dino? Si può dire? Dopo accusano di ingerenza, no. Attualmente farei grande difficoltà, diciamo dei grandi leader, di quelli che si sentono, ci sono alcuni giovani interessanti. Tipo? Ci sono, non so, uno. Però preferisco, ma non lo dico per codarderia, adesso davvero non mi viene in mente una persona che è più di altri. O meno di altri ancora. Vabbè, Massimo, hai capito, qua se non si sbilancia, Don Dino, molto democristiano. Sì, no, guardi, no, proprio no. Ecco, appunto, no. Vabbè, allora faccio sentire. Ritira la battuta. Laico, com'era? Laico maledetto? No, maledetto. Nessuno è maledetto. Sentiamo allora Renzi, vogliamo sentire Renzi sul caso Cancellieri, così chiudiamo con questa, che sarà la notizia della settimana. Vuole la mia opinione? Secondo me il ministro Cancellieri, che è una persona molto seria, che ha sbagliato in questa vicenda, io sono convinto che prima della mozione di sfiducia dovrebbe fare un passo indietro lei. Ah, eccolo lì. Insomma, deve dimettersi prima della mozione di sfiducia, che è prevista mercoledì. Lo farà, Massimo, un pronostico? Quello che dicevamo prima. Un pronostico mio è sì. Sì. Poi lo sbaglio come al solito, però secondo me si dimette e cade il governo per questo, oppure no. Dimette perché non cade il governo, perché se si va alla mozione di sfiducia allora sì che sono guai, perché lì si spacca il partito principale che deve sostenerla, per cui cioè il Partito Democratico, e quindi lì cominciano ad esserci grossi problemi. La fanno dimettere proprio per non arrivare a evitare a questo. Don Dino, ci lasci con un pronostico, visto che sta spesso a Roma. Come lo vede questa vicenda Cancellieri? Si deve dimettere? Ma io non dico quello che deve fare. Mi sembra che ormai non ci sia bisogno di pronostico. Credo che sia scontato quello che faccia. O si dimette o la dimettono, insomma. Iniziamo con l'ottimismo questa bella... Insieme alla profezia ci vuole un po' di prudenza, forse anche nelle telefonate. Profezia e prudenza, ecco, questo è il mantra che ci lascia Don Dino Pirri. Va bene, io mi devo fermare qui, vi ringrazio, è tempo di Giornale Radio e ci ritroviamo subito dopo per la rassegna stampa. Comincia alle 6:30 molto presto su Radio 24 per palinsesto. Peter Bescatella Alpino si sveglia col grappino. Miriam Lupetti si apre gli occhi coi paletti. Sarsa la saracinesca del Parlamento e si ricomincia col solito commento. È la Minetti che offre il caffè a tutti quanti, tanto paga la regione e andiamo avanti. Dopo arrivano ospiti importanti, simpatici più o meno tutti quanti. Conduce Milan, ma Milan solo di cognome, perché stanno la squadra c'è solo di nome. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta.

solo se nei procedimenti commettono un dolo o una colpa grave. Per coloro che vogliono cambiare questa legge, il risultato è che viene data questa cifra: in 25 anni è successo solo 4 casi, 4 di magistrati sanzionati in tutto questo lasso di tempo, in un quarto di secolo. Evidentemente o sono perfetti oppure c'è qualcosa che non va. Invece per i magistrati non è proprio così, ci sono non solo queste sanzioni molto gravi, ma ci sono anche altri casi in cui i magistrati sono stati in qualche modo puniti per degli errori. Insomma, il tema è molto molto sentito anche dai cittadini, ne vogliamo parlare, lo vogliamo fare con... Intanto dando il numero verde 800240024 per intervenire in diretta. Poi lo facciamo con l'onorevole Danilo Leva, che è responsabile della giustizia del Partito Democratico. Buongiorno onorevole, ed eccoci qua. Buongiorno. Così come voglio salutare un magistrato, Fabio Roia, che è stato anche componente del CSM ed è giudice. Buongiorno dottor Roia. Buongiorno a voi tutti. Benvenuto. Allora, intanto onorevole Leva, lei sa che si è messo in una questione, come dire, spinosa, per dire così. Ogni volta che si tocca questo argomento subito ci sono levate di scudi, eccetera. Perché il PD e lei in prima persona si espone a dire va cambiata questa responsabilità civile? Ma va cambiata perché la legge Vassalli, come ricordava lei, negli anni ha dimostrato di non funzionare, e va cambiata con una consapevolezza che la funzione giurisdizionale è una funzione peculiare, ha delle sue specificità e non è assolutamente paragonabile ad altre funzioni esercitate da altri funzionari dello Stato. Quindi va cambiata con equilibrio e va cambiata senza intenti persecutori nei confronti di nessuno. Questo io credo certamente. Che oggi, cambiando con equilibrio e con prudenza, coinvolgendo nel percorso di modifica della legge Vassalli anche i magistrati, io credo che si vada a rafforzare proprio l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Lei sa che questo è un percorso bello, che però in Italia spesso l'argomento è sempre stato posto così, no? Cambiamo la responsabilità di civile dei magistrati, ecco, subito si alzano gli scudi e via, il dibattito parte per la tangente, ognuno mantiene le proprie posizioni e basta. Per esempio, questa cifra, 4 magistrati, è davvero così? So che anche lei l'ha ricordata in un'intervista, le sembra normale che siano solo 4 questi casi di punizioni per magistrati? Ma non mi sembra normale, soprattutto quella legge, la legge Vassalli, prevede alcuni meccanismi che la rendono davvero molto farraginosa, molto direi quasi elefantiaca. Poi nel frattempo sono intervenute dal 1988 diverse sentenze anche della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Oggi sarà aperta una procedura di infrazione, è aperta una procedura di infrazione nei confronti del nostro paese. Insomma, io credo che delle modifiche siano necessarie, siano indispensabili, ripeto, per rafforzare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura e per rafforzare anche la legittimazione, se vogliamo, le fonti di legittimazione della giurisdizione stessa. Una proposta che lei ha fatto in questa proposta di legge, oltre al dolo e colpa grave, è aggiungere i casi di manifesta violazione di norme o travisamento di una prova che ledano i diritti fondamentali della persona. Che cosa vuol dire in concreto? Cioè, me lo concretizzi in un procedimento, cosa può essere questo? Cos'è una manifesta violazione di norme? Nel momento in cui si viola in maniera manifesta, appunto, violando quindi i principi di estrema chiarezza, si tratta di rifarci a quella che è la giurisprudenza dell'Unione Europea. In questa proposta di legge non abbiamo fatto altro che inserirci in quel solco, non ci siamo inventati nulla, ma ci siamo allineati alla giurisprudenza dell'Unione Europea. Dottor Roia, qui la questione è, lei lo sa, insomma, venite considerati magistrati arroccati dietro a questa cosa, la non punibilità, il non... Intanto questo numero è giusto, 4 magistrati che sono stati... Sì, sul piano civile, bisogna sul piano dire civile. Sul piano della responsabilità civile, perché altra cosa è la responsabilità disciplinare, dove noi in Europa siamo al secondo posto, è un rapporto della CEPEI del 2010 come numero di sanzioni irrogate, di procedure aperte, quindi molto di più di paesi simili come la Francia, la Spagna e l'Inghilterra, quindi questo è uno dei punti che va detto, perché su questi temi ci sono, come dire, delle ole mediatiche, dei momenti in cui si dice tutto il contrario di tutto connessi a dei fatti particolari. Io penso che questo tema sia molto riattualizzato all'esito della condanna dell'onorevole Berlusconi, allora è tornato di moda, si stanno anche dicendo cose inesatte, per esempio quello che ci dice l'Europa. L'Europa ci dice che la procedura è farraginosa, ma non ci dice per esempio cose che ho sentito dire anche da esponenti politici, che occorre la citazione diretta in giudizio del magistrato, cosa che peraltro non avviene in nessun apparato della pubblica amministrazione. Se un medico della ASL sbaglia, io non cito in giudizio per avere i danni il medico, ma cito l'ASL, sarà poi l'ASL che agirà come forma di rivalsa sul medico, quindi non capisco perché bisogna introdurre questa forma punitiva nei confronti dei medici. Credo che la stessa cosa valga anche per questa proposta di legge, cioè nel caso uno si rivale contro lo Stato e nel caso si dimostri che il magistrato ha sbagliato, poi lo Stato si rivalrà. Ma questa è una procedura, come dire, conforme al dettato costituzionale che vale per tutte le pubbliche amministrazioni. Altra cosa delle sentenze a cui faceva riferimento l'onorevole Leva, in realtà la Corte di Giustizia ci dice che i magistrati italiani applicano poco il diritto comunitario, questo è vero. Noi nelle nostre decisioni non andiamo direttamente alle fonti comunitarie, le filtriamo un po', ma questo non è un problema che riguarda la responsabilità civile, questo è un problema di omogeneizzazione del diritto italiano a quello comunitario. Allora, fatte queste premesse, dicendo condivido anch'io che la procedura Vassalli è una procedura farraginosa, bisogna però definire, questo è il grosso problema, quando un magistrato sbaglia. Io sono d'accordo che un magistrato sbaglia sicuramente quando applica per esempio una legge che non è più in vigore o ne applica un'altra che non è mai stata in vigore. Qual è la cosiddetta colpa grave? Esatto, colpa grave, vabbè, dolo è chiaro, se lo fa in mala fede commette addirittura un reato. Ma per esempio quando noi abbiamo una sentenza di primo grado che decide che una persona è colpevole e una sentenza di secondo grado che dice che è innocente, io vorrei capire, sbaglia il primo giudice e sbaglia il secondo? Ma quello non credo che siano errori, cioè non è che i processi devono finire sempre in un modo, voglio dire. Perché la valutazione di una prova, la valutazione del materiale di giudizio è un qualcosa che non ha delle regole tecniche applicabili, come dire, meccanicamente, altrimenti noi sostituiremmo i magistrati e la funzione giurisdizionale con dei software, degli hardware e avremmo ottenuto il risultato che tutti noi vogliamo. Cioè, per esempio, adesso abbiamo tutto il problema delle neuroscienze, abbiamo tutto il problema delle scienze complementari, pensi agli omicidi dove, non so, di Garlasco, di Perugia, dove abbiamo avuto sentenze esattamente contrarie in primo e in secondo grado, con l'ausilio che hanno fatto i magistrati del ricorso a queste scienze complementari. Io mi chiedo dove può essere definito e individuato l'errore. Ma vediamo, onorevole Leva, non credo che lei voglia dire, cioè, se i procedimenti finiscono in primo e secondo grado in maniera diversa, lì vuol dire che uno ha sbagliato e bisogna andare a capire chi ha sbagliato. Però ci faccia capire allora dove si deve ampliare, cioè perché vi siete spinti a dire così non va bene, cioè c'è troppa tutela evidentemente nei confronti dei magistrati. Ma no, ma guardi, non è questo il tema, altrimenti noi sbaglieremmo obiettivo. L'obiettivo, ripeto, e lo dico con grande serenità, non è quello di perseguitare i magistrati o perché sono troppo protetti o altre scemenze, lo dico tra virgolette, di questo tipo. Con questa proposta di legge noi ad esempio eliminiamo il filtro di ammissibilità previsto dalla legge Vassalli, perché è una delle cause principali di lentezza e di farraginosità del meccanismo. Poi andando a rimodulare, a riformulare, a ridefinire la responsabilità civile sempre dello Stato nei confronti del cittadino, perché io sono contrarissimo anch'io alla responsabilità diretta del magistrato, proprio per quelle funzioni peculiari che il magistrato esercita, perché se non fosse così diventerebbe la responsabilità civile un indebito strumento di pressione nei confronti del magistrato. invece l'indipendenza e l'autonomia della magistratura è a tutela, questa sì, dei cittadini. Però nella riformulazione e ridefinizione della responsabilità civile dello Stato inseriamo, ampliamo in qualche modo la cosiddetta clausola di salvaguardia. Lo facciamo in linea con quanto l'Unione Europea ci ha chiesto. Si risponde, il magistrato risponde per dolo, risponde per colpa grave, mai l'attività di interpretazione di norme, di diritto o valutazione delle prove o la valutazione che del fatto, non... a meno che non ci sia una lesione dei diritti fondamentali delle persone, che sono quelli sanciti dalla nostra Carta Costituzionale. Io credo che questa proposta di legge sia una proposta di legge molto equilibrata, e bisogna coinvolgere tutti adesso nel percorso istituzionale, perché è stata incardinata alla commissione. Quindi anche i magistrati stessi, lei dice, bisogna coinvolgere anche i magistrati stessi. Non c'è dubbio, io credo che siano maturi i tempi perché si possa, ecco, cambiare la legge Vassalli. Ma guardi, di quel quadro di certezze che noi abbiamo definito con dei paletti precisi. Lei dice maturi i tempi, l'idea è che in Italia in realtà i tempi non siano maturi mai per nulla, a dire il vero, cioè che si parli tanto delle questioni, e questa è una che torna di tanto in tanto. L'ultima volta che se ne discuteva, ricordate, fu approvato un emendamento del leghista Gianluca Pini che suscitò un putiferio di polemiche, eccetera. E insomma, le vogliamo parlare ripartendo proprio da qui. Siamo pronti, secondo voi, come Italia, per ampliare la discussione, se mai ve ne fosse bisogno, sulla responsabilità civile dei magistrati? Siamo con l'onorevole Danilo Leva del PD, con Fabio Roia, magistrato, con anche le vostre chiamate 800 24 00 24. Ripartiamo tra pochi minuti. 24 mattino. Eccoci qui alle 8:37 minuti, stiamo parlando di responsabilità civile dei giudici. E chi mi scrive: e quando sbagliano i giornalisti facendo più danni della grandine? Non so, se sbagliano possono essere anche querelati, se c'è diffamazione, succede, è successo anche a me in passato. Allora, siamo con Fabio Roia, magistrato, siamo con Danilo Leva, onorevole del PD. Certamente un ascoltatore, prima di dare gli ascoltatori, sono tanti su questo tema, onorevole dottor Roia, le chiedo questo, mi scusi, ma uno ci chiede giustamente via Twitter, ma una manifesta violazione dei diritti della persona, per esempio, non è di fatto una colpa grave? E però c'è il rischio che così rientri tutto, Roia. No, appunto, difatti io sono d'accordo che certi comportamenti, per esempio omissivi, non so, facciamo un esempio, se un imputato dice: io, guardate, mi accusate di una rapina, ma io quel giorno ero da un'altra parte, è dovere del pubblico ministero e del giudice verificare quell'alibi, se non lo fa, secondo me questo potrebbe essere un caso ci mancherebbe. Esatto, di sciatteria. Secondo me la difficoltà sta proprio nel definire che cos'è l'errore giudiziario, quando il magistrato sbaglia, questa è la definizione. Il problema è che nel rischio di quella difficoltà è che produce poi quei quattro casi, anche se lei ci ha spiegato, insomma, le differenze dovute, quattro soli casi che a giudicare dalle cronache giudiziarie sembrano un po' pochini in 25 anni. Perché noi, guardi, adesso non per fare sempre un atteggiamento difensivista e corporativista, per esempio abbiamo i casi maggiori, sono quelli per ingiusta detenzione, dove la persona che magari è stata sottoposta ad una misura restrittiva poi viene assolta, ma qua possiamo dire che c'è un errore giudiziario in astratto, perché la misura magari viene data su una base gravemente indiziaria, un conto sono i gravi indizi di colpevolezza e un conto poi la prova piena che deve essere raggiunta per arrivare ad una pronuncia di responsabilità. Questo scarto necessariamente comporta sempre un errore da parte del magistrato o non è purtroppo una fisiologia del nostro processo penale? È questo che a me un po' spaventa, la difficoltà di arrivare ad una definizione precisa di errore del magistrato. Questo certamente, sì, una soluzione facile non c'è. Io vorrei sentire gli ascoltatori. Gianfranco da Verona, buongiorno Gianfranco. Buongiorno a tutti. Allora volevo dire, ma per quale motivo non si responsabilizza queste persone? Come l'azienda o un artigiano è responsabile delle proprie azioni, delle proprie cose che fa, e se per caso sbaglia viene punito, per quale motivo, ma non solo i magistrati, consiglieri, assessori, ma tutti quanti devono essere responsabili. Ma guarda che Gianfranco, la responsabilità civile c'è appunto, solo che per dolo o colpa grave, questo è il punto. Ma questo qua, chi lo accerta. Questa situazione non è facile. Allora dico, se uno è responsabile di quelle azioni che lui fa, naturalmente se è grave si capisce e viene punito. Se invece non è grave, d'accordo, però ripeto sempre, la mia situazione da quando ho iniziato l'attività e così via, dicevo, ma per quale motivo noi ci continuano a tartassare, ci continuano a... E loro no, lei la vede così, noi e loro, insomma è un altro segno sempre del distacco che c'è dal paese cosiddetto reale, no? Viene sempre posto così, ma poi i magistrati sono persone come gli altri, insomma vivono nel paese. Comunque Gianfranco, accolgo volentieri il suo sfogo, come vede vorrei andare a Bergamo, anzi in provincia di Bergamo da Salvatore. Buongiorno Salvatore. Buongiorno Milan, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Io sono un ginecologo, tra l'altro ho appena smontato dalla notte. Mm-hmm. Io non ce l'ho con i magistrati, anzi li ringrazio perché, come dall'ultima commissione parlamentare d'inchiesta del gennaio 2013, il 98% circa dei processi a carico dei medici viene archiviato con una soluzione nei nostri confronti. Beh, lei li ringrazia perché? Perché insomma, faccio anche una captatio benevolente, io ho di fronte la legge del 13 aprile 1988, numero 117. L'articolo 2, comma 2 dice che nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto delle prove. Traduciamola in medichese. Sì. Nell'esercizio delle funzioni mediche, un medico non può essere considerato responsabile nell'interpretare gli esami dei laboratori, quindi nel fare diagnosi e nel fare terapia. Cioè, ora io credo che se questa cosa è calata nell'attività del medico è una cosa assurda. Voi si parla tanto di colpa grave. L'articolo 3 dice che cos'è che la colpa grave per il magistrato. La colpa grave è la violazione della legge determinata da negligenza inescusabile. Comma B. Sì. L'affermazione è determinata da negligenza inescusabile di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti di... Però Salvatore, non mi legga tutta la legge, perché sennò, cioè lei vuol dire che in realtà però li legge anche lei i casi, non so, sono tutti inventati i casi, non so, di magistrati che non scrivono le sentenze, che passano anni, che si dimenticano. Per esempio, vorrei tornare un attimo, facciamo un esempio che ha letto due giorni fa sui giornali, Roy. E poi torno un attimo dall'onorevole Leva. Ieri ho letto sui giornali, tre giorni fa su Libero, un magistrato a Venezia, se non sbaglio, a Padova, non lo so, non ha fatto parlare la parte civile e è andato direttamente a sentenza. Risultato: annullato tutto il processo. Questo è stato la metto brutale così. Quello lì, quel magistrato, che cosa ha fatto? Cioè, è un errore tecnico per cui, vabbè, ha sbagliato, si rifà il processo, eccetera, oppure è un errore che uno dice, ma come puoi fare il magistrato ancora se fai un errore di questo tipo? Beh, adesso bisognerebbe conoscere il caso. Sì, bisogna conoscere il caso, certo. La domanda posta così è un po'... sarebbe poco serio se io rispondessi a una domanda posta così non conoscendo le carte. Ci sono degli errori che a volte uno fa, per esempio sulle notifiche. C'è un sistema di notificazione degli atti che fa incorrere in errore il magistrato perché magari legge male una data di una cartolina postale, ma possiamo dire che questo è un errore che merita una responsabilità di tipo civile. Secondo me questo è un errore che dovrebbe essere, come dire, evitato attraverso una semplificazione delle procedure. Perché rispondendo a quell'ascoltatore, a quel medico ginecologo che ha fatto un paragone abbastanza calzante, forse è più esatta la scienza medica rispetto, come dire, a quella giurisprudenziale giudiziaria, perché se io ho di fronte una persona che mi dice guarda, io sono stato vittima di violenza sessuale da mio marito e c'è mio marito e sono gli unici due persone che mi dice no, non è vero, si inventa tutto, io devo credere all'uno o all'altro, ma non c'è un meccanismo esatto perché qualcuno mi dica devi credere all'uno o all'altro. La sensazione contraria è che se uno, non so, è un manager di un'azienda e sbaglia anche, per dire, a leggere una data, come dice lei, sulla notifica, e per questo fa perdere all'azienda dei, non so, centinaia di migliaia di euro, per un errore, non lo so, qualche tipo di responsabilità anche incorre in qualcosa, no? No, ci sarebbe quella contabile eventualmente, sì. Perché noi oltre alla responsabilità civile per cui cagioniamo un danno a una parte, siamo soggetti a responsabilità di tipo contabile e ci sono anche delle azioni erariali per questo tipo, per esempio quando teniamo un bene in sequestro per molto tempo e non lo risequestriamo e lo Stato deve pagare, non so, migliaia di euro per spese di custodia non dovute, il magistrato è soggetto a responsabilità erariale. Se può tranquillizzare le compagnie di assicurazioni, noi abbiamo una polizza che ci copre tutte le diverse responsabilità, sì. Civile, contabile, di tipo amministrativo. Onorevole Leva, lei crede che questo dibattito parlamentare possa andare avanti o possa, perché hanno detto, ma come, accuseranno il PD di essere, no, il partito che pro Berlusconi, sa, sa che questi sono discorsi di responsabilità civile soprattutto portati avanti nel centrodestra. Ma io non accetto assolutamente questo terreno di confronto, cioè nel senso che sono 20 anni in questo paese in cui ogni volta che si prova a fare una riforma cioè sembra sempre che la si fa per favorire qualcuno, cioè nel senso che quelli che non vogliono che si facciano le riforme dicono vabbè la riforma serve a Tizio piuttosto che a Caio o a Sempronio. Questa stagione, vista anche l'evoluzione del quadro politico insomma degli ultimi giorni, questa è una stagione, spero, mi auguro insomma che sia alle nostre spalle. Io credo una cosa, insomma, che la riforma della legge Vassalli fuori da un contesto di altri interventi non serve a nulla, cioè mi spiego. Noi siamo impegnati in Parlamento a portare avanti la riforma della custodia cautelare, la riforma della Fini Giovanardi, dovremo mettere mano alla riforma della Bossi Fini, dovremo in qualche modo consentire l'approvazione di istituti importanti come la messa alla prova o la tenuità del fatto. A questi pilastri io aggiungo anche la responsabilità civile, perché sono tutti provvedimenti che sono legati, dice. Sono figli, diciamo così, di una cultura delle garanzie che magari anche a sinistra, diciamo, è stata smarrita per troppo tempo. Ecco. Quindi io credo sia necessario, no, che sia tutto legato. Anche alla luce, diciamo così, di un'espansione della funzione giurisdizionale negli ultimi sì, lei ne parla come se ci fosse, diciamo, anche una legislatura di larghissimo respiro. Adesso non so su quanto per mettere mano a tutte queste riforme che lei ha detto quanto tempo ci vorrà. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi le vorrò chiedere anche, onorevole Leva, una domanda ovviamente sul tema attuale, quello che sarà il tema dei prossimi giorni politico, vale a dire il caso Cancellieri, tra poco. Allora, alle 8:49 minuti siamo qui con Fabio Roia, magistrato, con l'onorevole Danilo Leva del Partito Democratico, responsabile di giustizia del PD, per parlare di responsabilità civile dei magistrati. Volevo chiamare un ascoltatore, Alessandro dalla provincia di Udine, ma proprio in questo momento è caduta la linea. E allora, Roia, di fronte a chi dice che volete troppe tutele e volete troppe protezioni, lei pone anche la questione a dire non è vero, ci sono state tante sanzioni, il fatto che sia l'organo del CSM, cioè l'organo di autogoverno dei giudici, a governare appunto, a prendere questo tipo di sanzioni, non è un problema? Questa sezione disciplinare è composta per 2/3 da magistrati ma per 1/3 da componenti eletti dal Parlamento, quindi un organo misto a composizione, è vero che sono in maggioranza i magistrati? Io ritengo di no, perché in realtà la sezione disciplinare funziona molto bene. In questa consigliatura che finirà a luglio sono state irrogate ancora più sanzioni rispetto a quella precedente, tant'è che c'è un diffuso senso. Ma sanzione di che tipo? Mi scusi, cioè, mi faccio un esempio della la sanzione più tipica che viene data. La sanzione dipende dal tipo di illecito, può variare dalla perdita di anzianità e dello stipendio fino all'ammonimento, alla censura, in taluni casi molti magistrati, e questo non risulta come dato, per evitare il procedimento disciplinare si dimettono prima. Quindi secondo me il sistema disciplinare nostro è molto severo, tant'è che addirittura fra i colleghi si sta avvertendo un peso di troppo oppressività e burocratismo di questo sistema disciplinare. Per esempio, con le dichiarazioni rilasciate alla stampa si sono avuti dei casi dove sono arrivate delle sanzioni per dei magistrati che hanno rilasciato dichiarazioni alla stampa, tanto per parlare di illeciti. Io però sono uno abituato sempre ad essere positivo, cioè sono un riformista generalmente, non un conservatore. Io dico che nella materia della giustizia le riforme vanno necessariamente fatte. Secondo me l'obiettivo primario sarebbe quello di ridurre la durata dei procedimenti, soprattutto nel settore civile, anche se qui sempre dal rapporto dei CPEI i magistrati italiani sono quelli che in Europa hanno il secondo numero di maggiore produttività dopo la Russia, che però ha altri dati non comparabili. Allora non è tanto un problema di magistrati che non lavorano, come spesso si dice, è un problema di sistema che non funziona e quindi bisogna intervenire proprio in maniera sistemica ed organica su processo civile e su quello penale. Onorevole Leva, la questione politica della settimana è la questione cancellieri. Le chiedo, visto che nel Partito Democratico c'è molta maretta su questo, ha visto Renzi, Civati dire si dimetta, lei di che posizione è? Secondo lei cancellieri deve dimettersi? Ma le dimissioni appartengono alla sensibilità istituzionale di ciascuno di noi. In un paese normale le dimissioni non si dovrebbero chiedere, si dovrebbero dare. Sono di questo parere. Sì. Noi martedì avremo una riunione del gruppo, decideremo tutti assieme, decideremo una linea comune alla quale mi auguro e poi tutti si attengono. Questo si vedrà. Ma la sua posizione, cioè, lei ha imbarazzo per queste telefonate, cioè dal punto di vista proprio personale? Io l'ho dichiarato nei giorni scorsi, lo ripeto oggi, quelle telefonate sono totalmente inopportune, sono state totalmente inopportune. Certo è non c'è stata, anche a detta della Procura di Torino, l'interferenza del ministro sulla scarcerazione della Ligresti, ma resta davvero l'inopportunità di quelle telefonate. Anche perché potrebbe finire indagata, si deciderà appunto tra oggi e domani se ha mentito o no in quell'interrogatorio al procuratore di Torino. Quindi. Questo vedremo, non spetta sicuramente alla politica questo compito, spetterà alla magistratura, quindi attenderemo. Fatemi sentire Rodolfo dalla provincia di Lucca, buongiorno Rodolfo. Buongiorno dottor Milan, ascolti, io saluto anche il suo ospite, voglio intervenire sulla questione dei magistrati e dei giudici. Come cittadino sono indignato di questi continui attacchi degli apparati dello Stato che stanno funzionando benissimo, come la magistratura, come i giudici e come anche le forze di polizia che stanno facendo il loro ruolo con difficoltà, con continui tagli e continui, mi stanno minando queste attività con i tagli, perché io mi sono reso conto che da quando qualcuno è entrato in politica e ha pensato che avere un sacco di soldi e magari pensava che anche poteva applicare la magistratura ai propri... Ma questo più che un attacco è una discussione sulla responsabilità civile, lo trova già come un attacco. Perché ci sono dati oggettivi, perché io se non ricordo male, qualche nome di giudice, Metta e Pacifico, qualcosa del genere, ora non so se mi ricordo bene, sì. E forse siamo partiti col piede sbagliato, forse bisognava pensare che, e bisogna tuttora pensare che la politica non deve piegare la magistratura ai propri... Lei ha fatto i casi dei nomi che coinvolgono Silvio Berlusconi, però questo caso non è piegare la magistratura, se ne può discutere, no? Però voglio dire, tanto che il partito che ora vuole fare una discussione sulla responsabilità civile è il Partito Democratico, come ci ha detto l'onorevole Leva. Però sono in chiusura. Roia, posso chiedere anche lei un parere sulla vicenda Cancellieri o non si vuole addentrare in questo? Insomma, è pur sempre il suo ministro. Sono d'accordo con l'onorevole Leva, questo è un profilo di opportunità che appartiene prima di tutto alla sensibilità istituzionale del ministro, secondariamente alla politica. E quindi, come dire, è un parametro che riguarda la sfera della morale, dell'etica, che deve essere gestito prima di tutto singolarmente e poi dalla classe politica. E però la morale e l'etica, poi quando uno è ministro, insomma, non sono, cioè, se è inopportuno e uno è anche ministro, forse insomma le due cose sono inconciliabili. Questo però è il mio parere personale. Io mi fermo qui, ringrazio Fabio Roia, ringrazio l'onorevole Danilo Leva del Partito Democratico e, come dire, da Miriam Lucchetti in redazione con Alessandro Marcotulli e Elisabetta Fusconi. il saluto insieme al nostro alpino Peter Bescapè in regia. L'appuntamento è rinnovato a domani, siamo sempre qui alle 6.30 e vi ricordo anche il profilo Twitter Alino Milan, quello sono io, seguitemi se vi va, ciao. Volete dire la vostra? 02 4652 4492, chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 24 mattino.